a salvar quella ninfa. Io piuttosto che l'amor ti spinse. Inganni, io potuo amare. Ecco, figlio mio, vedi come ti inganna. Che fego è qui l'ingrata. Bella nevina, hai finto? Sì, ma io non posso nascondere lo strano. E mi fui zeno.